Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, Valerio Rocchetti, il nostro regista. Vi salutiamo, bentornati all'ascolto. La nostra guida questa settimana, diremo il nome tra poco, è molto importante, un caro amico, ma vorrei innanzitutto, dato i tempi, rassicurare qualche ascoltatore, qualora fosse così indotto o fosse stato indotto dalle recensioni dell'ultimo libro a pensare che la nostra guida profumi di zolfo. Marco Politi non profuma di zolfo, lo attestiamo, benvenuto. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Intanto buona Pasqua a tutti, gli auguri più cari. E dunque, la Chiesa del No, indagine sugli italiani e la libertà di coscienza, Mondadori, l'ultimo saggio di Marco Politi. Di una ricerca che però è anche molto più ampia, perché questa è, diciamo, la Chiesa del No, poi c'era la Chiesa degli entusiasti, che è stata fatta oggetto di un'altra inchiesta del 2004, il titolo era Il ritorno di Dio, viaggio tra i cattolici d'Italia, sempre da Mondadori, 3 edizioni, molte, diciamo così, recensioni entusiastiche. Poi, diciamo, l'altra faccia della Chiesa in Italia appare, esiste, cioè non è che se l'è inventata Marco Politi, e sono partite subito la contraerea, quasi per dire che questa Chiesa non esiste. Pure nel libro ci sono voci autorevoli, voci importanti, voci che tutti conosciamo. Perché questa difficoltà ad accettare un libro dove si parla di una dialettica all'interno del mondo cattolico in questo paese? Beh, la difficoltà è da parte di alcuni settori della gerarchia ecclesiastica, perché invece da parte dei lettori l'accettazione è stata molto, molto incoraggiante, perché in poco tempo è arrivato al 14° posto nella hit parade della saggistica. Il fatto è che la Chiesa italiana è una realtà molto ricca, molto variegata e piena di energie positive, e che al tempo stesso, da 15 anni, la gerarchia sta producendo una serie di no che bloccano l'attività legislativa, che porterebbe il nostro paese ad avere delle leggi moderne come le altre parti d'Europa. Questo è il problema. L'Italia è una società pluralistica, l'Italia è una società in cui non c'è assolutamente una divisione tra Guelfi e Ghibellini. I cattolici hanno delle posizioni molto variegate e in genere hanno un rapporto molto sereno con i diversamente credenti e anche con i non credenti, che peraltro in Italia sono pochissimi, una minuscola, faranno forse il 5%, già è tanto dire che i non credenti sono il 5%. Pare che siano il 3,5 secondo gli ultimi dati Istat, e quindi, in decrescita. Anzi, sono anche andati indietro, sì. Giustamente, come ricordi. E però questa gerarchia ecclesiastica, rispetto ad una serie di problemi reali che chiedono una soluzione, non rispondono altro che no. Dunque, abbiamo avuto il no al divorzio breve anche per coppie che non hanno figli, abbiamo avuto il no ad una legge sulle coppie di fatto che esiste tranquillamente in altri paesi europei, abbiamo avuto il no alla possibilità di dare una regolamentazione alle unioni omosessuali come esiste in altre parti del mondo. Abbiamo avuto il no a una modifica della legge 40, quella sulla fecondazione assistita, soprattutto su un punto molto delicato, e cioè che una madre possa selezionare l'embrione da impiantare quando, avendo una malattia genetica, lei e il suo sposo, diventa essenziale impiantare l'embrione sano e non l'embrione malato. Abbiamo avuto il no sul testamento biologico. In questi giorni vediamo che non avremo una legge sul testamento biologico, perché è già stato detto che qualsiasi decisione il singolo possa prendere per il futuro del proprio stato vegetativo, per gli sviluppi della propria salute, non sono vincolanti per il medico. Ora, in una situazione come questa, io, già come l'altra volta facendo l'inchiesta sul ritorno di Dio, ho voluto lasciare i palazzi dell'informazione, i palazzi della politica, i palazzi ecclesiastici, e andare a parlare con tanti protagonisti che rappresentano in carne e ossa quelli che sono gli italiani o le italiane di oggi. È diverso discutere di selezione dell'embrione in astratto, ex cattedra, oppure incontrare una madre cattolicissima con il marito cattolicissimo, che ha visto nascere un bambino a luglio e ha saputo inesorabilmente che doveva morire a ottobre, soffocato, e che poi ha provato ancora altre 2 o 3 volte con aborti successivi, perché il corpo stesso rifiutava in qualche modo questo prodotto di una malattia genetica che lei ha, e che è disperata perché non può fare in Italia la selezione dell'embrione. Allora, rispetto a un tema così delicato, non si può semplicemente dire no. Dice, partecipa a questa roulette, si sa che il 25% dei casi sarà fatale, il 75% può andare bene. Ecco, non si può costringere una coppia di credenti, per di più, a soffrire questa roulette. Così come non si può negare a 2 persone che decidono di vivere insieme ordinatamente, di avere un patto di mutua assistenza, ad avere una minima cornice giuridica. Però quello che può essere, diciamo così, la risposta di un individuo, noi la ritroviamo anche in uno studio serissimo organizzato dalla rivista dei Gesuiti di Milano, Aggiornamenti sociali, diretta da padre Bartolomeo Sorge, che non è un trinariciuto, che ha messo insieme degli esperti dal punto di vista scientifico e teologico, ed è arrivato alla conclusione che per il bene della società anche l'unione fra 2 persone dello stesso sesso è molto meglio che sia ordinata in una maniera regolare piuttosto che incoraggiare rapporti selvaggi e rapporti frammentati. Ma sì, diciamo sì, poi siamo amici, quindi diciamo così, noi sappiamo molto bene su che cosa concordiamo, su che cosa non concordiamo. Però quello che a me interessa è vedere anche come un giornalista che analizza quindi la realtà religiosa nel nostro paese, e lo ripeto, nel 2004 con Il ritorno di Dio, Viaggio tra i cattolici d'Italia, edito sempre da Mondadori, 3 edizioni, molto venduto, era l'Italia dei movimenti, l'Italia dell'identità cattolica. Anche delle micro realtà che noi non conosciamo mai e che sono molto entusiaste e impegnate. Soprattutto, tra l'altro, sono così molto convinto che a livello poi locale siano quelle anche che esprimono anche forse l'unica parte dove c'è stata la crescita civile, in quel maggioritario che vede spesso a livello di parrocchie e municipi duettare 2 o 3 parti con delle proposte concrete, non con delle pure teorie. Poi c'è il suo libro in libreria, La Chiesa del No, indagine sugli italiani e la libertà di coscienza, sempre da parte pubblicata da Mondadori, dove ci sono Enzo Bianchi e tante altre persone. Poi ad un certo punto salta fuori che se appena si entra dentro una dimensione dialettica, appunto, abbiamo visto sui giornali addirittura dare del catto comunista al cardinale Martini, cioè abbiamo visto certo. Giornali cattolici letteralmente danzare sulla bara di cattolici illustri appena defunti, come è successo per il povero Alberigo la settimana prima che morisse, proprio un giornale che poi si dice pure ufficiale della Santa Sede, così articoli, cioè si arriva addirittura a un disprezzo, sembra quasi la lettera, visto che stiamo registrando in quel giorno, di Benedetto XVI di oggi, che ci dice che dentro la Chiesa Cattolica cosa c'è, un endocannibalismo. Come lo spieghi? Perché poi in realtà, se uno si mette dalla parte dei cattolici, i temi che tu hai evocato hanno già delle soluzioni pratiche, concrete. Se uno si mette dalla parte, che so, di quella che l'ufficialità rappresenta la Chiesa in Italia, sembra che siano muri insuperabili. Poi... Questa ufficialità, questa gerarchia ecclesiastica in realtà ha paura. Ha paura della nuova soggettività di massa che si è creata nella seconda metà del Novecento. Oggi la religione, la fede viene trasmessa, ma non viene più inculcata sistematicamente dalla società, dalla scuola, dall'esercito, in una maniera quasi come un pacchetto fatto. Oggi le persone, quando sono religiose, lo sono consapevolmente, con la propria mente, con il proprio cuore, e soprattutto vogliono decidere loro. E quindi noi possiamo avere anche atteggiamenti contrastanti che sono frutto di questa autodeterminazione. Io posso citare il caso di una giovane professionista che va a fare i pellegrinaggi a Lourdes, che ha dei rapporti quando ritiene che ne valga la pena, anche senza essere sposata, che era contro una legge sulle coppie di fatto e che al tempo stesso invece era d'accordo con l'inseminazione artificiale eterologa. Quindi vediamo delle posizioni assolutamente diverse caso per caso. E questo è frutto appunto di una dilatazione della coscienza e dell'autodeterminazione dell'individuo che in un paese come il nostro, all'87% cattolico, coinvolge la grande maggioranza dei cattolici. La gerarchia ecclesiastica ha paura di questo e la gerarchia ecclesiastica allora cerca di premere sulla classe politica perché certe leggi non vengano fatte o vengano fatte in modo differente. E lì abbiamo purtroppo il fatto che la classe politica è molto fragile per paura che possa vincere uno schieramento magari con 24.000 voti come accadde con Prodi nel 2006, spesso cede a quello che sono le pressioni della gerarchia ecclesiastica. Bisogna dire che sistematicamente io seguo i sondaggi dall'anno 2000 in poi. Ogni volta che si rivolgono delle domande molto precise all'opinione pubblica cattolica e all'opinione pubblica degli italiani in genere, la risposta è sempre: primo, la Chiesa deve essere assolutamente libera nel parlare, criticare, nell'intervenire. Secondo, il Parlamento deve essere autonomo dalla religione nel fare le leggi. Cito l'ultimo sondaggio fatto subito dopo le elezioni dalla società SVG, nota a tutti, in cui questa richiesta di autonomia veniva fatta dall'80% degli interrogati e dal 68% dei cattolici praticanti. E su tutti questi temi che prima abbiamo indicato, dal testamento biologico alle unioni di fatto, c'è sempre stata una maggioranza favorevole perché queste leggi si facessero. Marco Politi, la nostra guida, stiamo parlando anche del suo libro La Chiesa del No, indagine sugli italiani e libertà di coscienza per Mondadori. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Marco Politi, la nostra guida questa settimana. Il nostro cielo è colorato dai temi del suo ultimo libro inchiesta, La Chiesa del No, indagine sugli italiani a libertà di coscienza, edito da Mondadori, sospettato di ripetere, diciamo così, zaffate di fumi solforosi, però secondo me va letto in parallelo anche con la sua prima inchiesta, la prima parte della medaglia, Il ritorno di Dio, Viaggio tra i cattolici d'Italia, e forse prima ancora con Sua Santità, scritto insieme a Karl Bernstein, diciamo così, un'analisi era stata tentata anche in parallelo con quello che era un pochettino l'impatto di Papa Wojtyła su questo ritorno della Chiesa sulla piazza, dopo certo. Che... Poi ci spiegherai come avevi fatto 2 anni prima del conclave ad azzeccare il nome di Josef Ratzinger come futuro papa. È stato l'unico, insomma, gli va comunque detto, perché poi quando il nome ricircolava si diceva, me lo ricordo, vabbè, ma questo lo dice Marco Politi, e si pensava ad altri, che so, a indiani, a... Allora Marco, poco fa hai detto che la gerarchia cattolica di questo paese parte dalla dicotomia, però io lo contesto a questa affermazione perché ho un vantaggio su di te, sono prete, quindi se io dovessi incominciare a mettere in fila i nomi dei vescovi italiani che hanno avuto, per così dire, una immagine importante nella sfera politica a livello nazionale e anche a livello regionale, faccio fatica ad arrivare a 5-6 nomi. In Italia ci sono 267 diocesi. Mi è capitato in una piccola diocesi in cui sono vicario episcopale, per esempio, vedere, prima delle elezioni amministrative, le delegazioni dei vari paesetti che venivano a chiedere consiglio al vescovo su come fare la lista, magari per la rosa nel pugno. ed è, diciamo così, famosissimo l'episodio che racconta Camilleri quando andò dal vescovo che aveva fatto leggere per primo critica di ideologia tedesca nel 1946 ad annunciargli che avrebbe aperto una sezione del Partito Comunista nella sua città natale. Il vescovo guardò e gli disse: beh, forse è meglio che la apri tu che qualcun altro. Cioè, in realtà a livello locale questa dicotomia non c'è. Il problema vero è, non è stato forse a livello di sistema nazionale comodo per la comunicazione, comodo forse per una certa dialettica politica all'interno di questo orfanotrofio ideologico, tenere in piedi questo gruppuscolo di politici con la tonaca di fronte a un muro, di politici senza tonaca, a riproporre questa lotta di neoguelfismo, neoghibellinismo, che poi a livello territoriale non mi sembra esistere. Ecco, ma difatti quello che tu dici secondo me si integra benissimo nella ricerca che ho fatto sul campo. Intanto perché a livello territoriale, nelle nostre città, nei nostri posti di lavoro, nel quotidiano, non c'è questa spaccatura fra guelfi e ghibellini. Il cattolico del quotidiano è molto tranquillo insieme ai suoi altri colleghi non cattolici o diversamente credenti. Secondo, ci sono dei politici in tonaca e purtroppo c'è un grande numero di politici senza spina dorsale. Non è il fatto che non abbia la tonica, non ha la spina dorsale per discutere. E va aggiunta una terza cosa, che quando la conferenza episcopale si riunisce, sostanzialmente su questi grandi temi non c'è una vera discussione. Perché in un colloquio lungo che riporto per i lettori, che ho avuto con il vicepresidente della conferenza episcopale per tanti anni, Monsignor Alessandro Plotti, vescovo di Pisa, lui mi racconta che, per esempio, in Francia e in altri paesi la conferenza episcopale, l'assemblea, inizia mettendo sul tavolo alcuni punti, si discute e alla fine vengono tratte le somme. Che cosa succede invece? Cos'è successo negli ultimi 15-20 anni? Che il presidente della conferenza episcopale si presenta con una relazione che è già stata vidimata e approvata dal Papa, questa relazione viene distribuita in anticipo a tutti i mass media e quindi prima ancora che il dibattito inizi questa diventa la voce della Chiesa, la voce della gerarchia, la voce dell'Episcopato italiano, come in altre volte la voce del Vaticano. E quindi gli argomenti non vengono sviscerati sul serio e non c'è quel dibattito che c'è in altri paesi. Basta vedere anche in questi giorni sulla questione dei lefebriani certi comunicati dell'episcopato tedesco, dell'episcopato austriaco, dell'episcopato svizzero o francese sono molto più puntuali sul tema, sulla questione, fanno emergere preoccupazioni, preoccupazioni sul concilio, fanno emergere preoccupazioni anche sul funzionamento della comunicazione in Vaticano, mentre invece il comunicato dei vescovi italiani parte subito dicendo siamo pienamente solidali con il Santo Padre, quindi già mettendo all'inizio quello che potrebbe essere semmai una considerazione di fondo, ma entrando poi nell'argomento. Voglio ricordare che su tutta la questione, per esempio, l'astensione sul referendum sulla fecondazione assistita è stata una questione decisa dall'allora presidente della CEI, Cardinale Ruini, in autunno. In segreto sono stati chiamati i rappresentanti delle principali associazioni, dei principali movimenti, e quando è passata la linea che bisognava astenersi, l'Assemblea Episcopale si è riunita solo a maggio, pochi giorni prima del referendum, quindi non c'era più assolutamente nessuna possibilità di aprire un dibattito vero su questi problemi reali che ho indicato. Quando io sono andato a parlare con la Bindi, lei mi ha raccontato da politica cattolica lo sforzo che ha fatto anche di mediazione per trovare la possibilità di una norma sulle coppie di fatto che tenesse ben distinto quello che è il matrimonio, quelle che sono però le esigenze di una coppia di fatto. E poi lei non si è lamentata perché è una signora, ma io ho ripercorso documentando tutti gli attacchi molto duri, anche personali, che sono arrivati dall'Avvenire, dal Giornale dei Vescovi, gli attacchi che ci sono stati nei confronti di Prodi, e sono stranamente o diciamo strategicamente, degli attacchi fatti proprio a cattolici che vogliono rivendicare quel minimo di autonomia e di laicità nell'agire politico, non tanto attacchi ai non cattolici. Forse il Presidente della Repubblica, che con maggiore consapevolezza del problema ha risposto ad un Papa, è stato l'ex Presidente Scalfaro, quando ricevette Wojtyla e gli disse che giustamente la Chiesa doveva illuminare la strada, quindi indicare gli orizzonti, ma che poi toccava ai laici cristiani impegnati in politica fare le loro scelte. Qualche anno fa, quando era ancora cardinale, il cardinale Ratzinger fece un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui sottolineava invece che i cattolici impegnati in politica non potevano rivendicare il pluralismo o l'autonomia delle scelte sui cosiddetti principi non negoziabili. E citava la questione della vita, la questione della famiglia, la questione delle scuole. Sì, ma hai ragione, però continuo comunque a ritenere aperta che il vero problema, cioè il punto di partenza per ritornare a riscrivere anche le categorie di una laicità condivisa e condivisibile in questo paese, non è continuare a seguire, diciamo, questo spartito che tu hai descritto spesso artatamente, diciamo, musicato in anticipo dai soliti tre o quattro musicanti. Poi, tra l'altro, la definizione del ruinismo più pregnante viene dal cattolico De Rita, che lo definì come la negazione di ogni distanza tra il pugno del pretoriano e il muso del presunto nemico. C'era anche lo storico Alberigo che diceva che il sogno di Ruini in fondo era quello di fare il segretario di partito. Ma Ruini stesso, con molta simpatia, in un dibattito all'Università Cattolica di Milano, riconobbe di essere un animale politico al fondo delle sue fibre. Però allora credo che il vero punto di partenza sarebbe dicendo in passato, forse avremmo guadagnato tempo, di ripartire proprio da dove il problema non esiste, per incominciare a statuire quello che già facciamo e per dire: guardate, dite quello che volete, ma siccome questa è la nostra vita e già la viviamo, la legge deve essere questa. Hai tempo per lasciarci una massima come conclusione di questo percorso? Intanto è quello che hai detto tu, tantissimi cattolici, la maggioranza dei cattolici vuole esattamente decidere della propria vita. Il mio libro si chiude proprio con un'espressione del monaco Enzo Bianchi che dice: purtroppo nella Chiesa spesso chi esprime un'opinione diversa viene visto come un nemico. Invece ci sono tanti laici che sono pronti ad ascoltare la parola della Chiesa, e la Chiesa dovrebbe ascoltare di più anche lei i laici. Grazie Marco Politi. Suo libro, lo ripeto, La Chiesa del No, indagine sugli italiani a libertà di coscienza, per Mondadori, lo trovate in libreria. E di nuovo gli auguri più cari per una santa e serena Pasqua a tutti. Grazie Riccardo Silvi, grazie Valerio Rocchetti, grazie a voi tutti, a risentirci.